Letture di Radio 24. Caro Ministro, porti Berlusconi a visitare un museo. Così si chiude la lettera aperta che Salvatore Carrubba, del Sole 24 Ore, ha scritto sulle pagine dello stesso giornale al neo insediato Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Giancarlo Galan. Un invito per capire una volta per tutte che la cultura in Italia non è un accessorio a cui concedere finanziamenti governativi, ma una presenza necessaria e da preservare. Signor Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, non è detto che l'incarico che si è assunto la scaraventi in un mare di guai, come scherzosamente ha dichiarato. È vero, i tempi sono duri, per tutti. Le risorse scarse, gli interessi organizzati, fragorosi e autorevoli, le burocrazie, in molti casi, radicate. E soprattutto immane è il compito di tutelare il patrimonio materiale e immateriale di cui siamo responsabili nei confronti del mondo, e che spesso c'è la tentazione di gestire più come un giacimento, fonte chissà di quali ipotetici ricavi economici, che non come un deposito di civiltà. È certamente positivo che il FUS sia stato rimpinguato, ma questo non basterà ad assicurare sonni tranquilli a teatranti e uomini di spettacolo. Nel caso della lirica, molti teatri non potrebbero sopravvivere nemmeno ai livelli di finanziamento precedente. Il fatto che per reperire le risorse per il FUS si aumentino le accise, anziché razionalizzare le spese, è significativo al riguardo. Innanzitutto, perciò, lei farebbe bene a definire che cosa vogliamo che la lirica, forse la forma artistica più italiana che ci sia, rappresenti nel nostro sistema culturale italiano, e che cosa ciascun teatro possa credibilmente fare, indipendentemente dall'assurda tentazione di trattarli tutti allo stesso modo. Abbandoni perciò la perniciosa e ostinata tendenza delle burocrazie di tagliare con la pialla, colpendo allo stesso modo le gestioni sane e quelle avventurose. Rintuzzi la tentazione di affidare questo settore e grandissima parte dello spettacolo dal vivo esclusivamente alla spietata ma efficiente logica del mercato. Non succede da nessuna parte, nemmeno nella patria del liberismo realizzato, ossia gli Stati Uniti, dove lo Stato non finanzia lirica e cultura, ma rinuncia a un bel po' di tasse perché lo facciano i privati. Perciò dimostri al suo collega Giulio Tremonti di avere una strategia complessiva sul settore, che, per essere efficace, non potrà trattare tutti allo stesso modo, ma dovrà premiare chi merita, correggere chi sgarra e motivare tutti a una gestione efficiente. Non sarà un compito facile, perché la pialla scontenta tutti, ma non offende alcuno in particolare. Ma se non avrà offeso nessuno, consideri perduta la sua missione. Sui musei non dia retta a chi pensa davvero che ogni singolo museo possa diventare un piccolo Louvre, che non a caso è un fenomeno unico al mondo. E non dimentichi che se l'Italia è l'Italia, ciò è dovuto in larga misura alla presenza di un patrimonio fatto anche di siti sperduti e di micromusei. C'è molto da fare per valorizzarli, ma occorre innanzitutto tenerli aperti e al sicuro. Un compito al quale lo Stato non può abdicare nell'illusione di farne macchine da soldi, quali non sono, nella norma, in nessun paese. Quanto ai grandi musei, certo, trattiamoli come imprese, ma allora studi forme più amichevoli e meno vessatorie per motivare all'investimento. Ripeto, all'investimento, non alla carità dei privati. Si dia un grande obiettivo e lo persegua con ostinazione. Gliene indico uno, sfidando doppi e tripli conflitti di interesse, a partire da quello dell'essere milanese d'adozione. Brera, un paese sensato non può tollerare che la vicenda di questo palazzo, con tutto quello di grande che esso contiene, si trascini indefinitamente per decenni. Ormai le idee sono abbastanza chiare. C'è un commissario autorevole, energico e motivato. Faccia in modo che abbia i mezzi e dia il via a un progetto che contribuirebbe a rilanciare l'intero patrimonio museale della nazione. Infine, organizzi 3 incontri. Il primo lo dedichi al sistema delle imprese per motivarle a investire in cultura. Troverà orecchie attente e affronti con loro come migliorare le agevolazioni fiscali, che peraltro già ci sono, per quanto goffe e svogliate, per poi metterle in pratica, naturalmente. Il secondo incontro lo dedichi alle fondazioni di origine bancaria. Questo sarà più delicato perché esse, giustamente, sono assai gelose della propria autonomia, espressione dell'autonomia dei territori. Ma forse individuare qualche linea di coordinamento generale in vista del raggiungimento di grandi obiettivi condivisi è possibile. Infine, parli con le città, sempre rispettandone autonomia e competenze. Credo che la faccia feroce del ministro Tremonti dipenda in larga misura dal sospetto di spese quantomeno discutibili proprio nell'ambito della cultura. Non ha tutti i torti. Le racconto un episodio. Pochi giorni fa mi trovavo in una piccola e deliziosa cittadina nel cuore della Sicilia barocca, il cui sindaco annunciava l'intenzione di restaurare il magnifico palazzo comunale per trasformarlo in sede di un museo del territorio che si affiancherebbe ai due musei già esistenti. A quel sindaco qualcuno dovrebbe spiegare che quell'investimento sarebbe dannoso, oltre che inutile. Sono certo che affronterà il suo incarico con lo spirito liberale che le appartiene, senza dimenticare che lo Stato, e dunque la politica, si devono occupare della cultura non per ingraziarsi gli operatori o per conquistare il consenso, ma per difendere quella civiltà che si chiama Italia. Perciò si dedichi all'impresa forse più difficile. Convinca il Presidente del Consiglio a trascorrere una serata a teatro, a visitare un museo, ad ascoltare un concerto. Ma lo faccia in una serata normale, non perché trascinato a un evento, parola che lei farà bene a non usare mai. Non ci sarebbe bisogno dei fotografi. La notizia farebbe il giro del mondo e il risultato di immagine garantito. Dopo la lettera aperta di Salvatore Carrubba, ascoltiamo la risposta del ministro. Galan si pone come obiettivo quello di uscire dalla sfiducia nella cultura. Un italiano di media cultura non può non avere piena consapevolezza di quanto si sia enormemente abbassato il livello di minima sopravvivenza concesso dalla presente condizione del nostro paese al sistema culturale, che ormai da tempo si mostra per davvero sconquassato, sia dentro che fuori la pubblica amministrazione. Dico questo non per mettere le mani avanti, ma perché convinto del fatto che se si vuole uscire dalla sindrome ultimi giorni di Pompei, è indispensabile tenere alto l'urlo della sirena, come è giusto che sia in prossimità di un grave pericolo. Siamo in un territorio, quello dei beni e delle attività culturali, attraversato da sfiducia, caduta delle illusioni, mancanza di certezze nella possibilità stessa di raggiungere gli obiettivi già programmati, e questo nel corso di tempi umanamente accettabili. Dunque, prima ancora della riconquista dei soldi, prima ancora dei bilanci da riportare a quanto occorre per riconoscere effettivamente i meriti di chi sa garantire una gestione efficiente, a partire dal completo utilizzo dei fondi messi a disposizione, avverto la priorità di assicurare una posizione centrale alla cultura rispetto a un contesto politico e sociale che viene, da troppi anni, considerato detestabile da chi realmente fa cultura, chiede cultura, trasmette cultura, oppure frequenta l'emporio delle più avanzate creatività in ogni campo. E il pretendere una specifica centralità per la cultura significa, me lo auguro, poter chiudere per sempre il capitolo della sfiducia, della depressione o della rabbia sterile che ora avvilisce ingiustamente chi è entrato nella pubblica amministrazione pensando di esercitare al meglio la propria professionalità, la propria passione. Intanto, nei primi giorni da ministro della cultura, mi sono subito imbattuto nella pochezza dei cosiddetti ben pensanti, di coloro cioè che praticano la censura culturale, che difendono i tabù ideologici, che si scandalizzano se c'è chi pone domande o esibisce dubbi di fronte ai patiti di una città, un festival del cinema, una notte bianca fa felice il sindaco e pure l'assessore, il bronzo è mio e lo gestisco io. E per restare all'insopportabile invadenza dei conformismi, accetto, nonostante ciò rappresenti una difficile promessa, l'invito di Salvatore Carrubba a evitare la parola eventi. Già che ci siamo, prometto di pensarci mille volte prima di cadere nel luogo comune dell'Italia, paese più ricco del mondo di bellezze naturali e di beni culturali. Come Carrubba sa, sono tante le vestali che accorrono con rimedi di vario genere al capezzale del morente sistema culturale italiano. Vestali non sempre affidabili, però. Tanti i suggerimenti e le proposte, invece, che cercherò di leggere e tenere a mente, dato che, per fortuna, non mancano i bravi medici. La lettera dei buoni consigli contiene obiettivi e raccomandazioni che, una volta raggiunti o soddisfatte, assicurerebbero un giudizio più che positivo sull'operato di qualunque ministro. Infatti, Brera è un prestigiosissimo progetto che non può rimanere incompiuto allo stesso modo delle gallerie dell'Accademia a Venezia o degli Uffizi a Firenze. Ancora, dovrei incontrarmi con il sistema delle imprese per riavere fiducia e credibilità nell'investire in cultura. Lo farò, ma siamo a tutt'oggi impantanati in una crisi dove si mostra violento il ridimensionamento di attività proprie della cosiddetta responsabilità sociale delle imprese. Nutro maggiori speranze, senza però illusioni eccessive, per quanto potrà venire dalle fondazioni di origine bancaria. In ogni caso, purtroppo anche qui non mancano le spine e sarà necessario impegnarsi non poco per far fiorire le rose. Terza raccomandazione di Carrubba. Nel rispetto delle inverse autonomie e competenze, tenere in debito conto le città. E il tema della collaborazione urbana fra lo Stato e i 1000 e più campanili o torri civiche certamente rappresenta il percorso più accidentato, perché qui fiorisce la malapianta del provincialismo, del campanilismo. Ciò detto, l'Italia della cultura e dell'arte, se desidera tornare a essere la bella Italia del mito legato al Grand Tour o il bancone aperto sugli orizzonti dell'intelligenza e quindi delle più avanzate innovazioni, non può che ripartire proprio dalle città. Per concludere, prometto tutto e non prometto nulla, fino a quando dallo 0,19%, che è l'incidenza del bilancio del Ministero sull'intero bilancio dello Stato, non saremo risaliti di molti punti in percentuale e fino a quando non sarà riaperto il capitolo delle assunzioni, perché senza l'apporto del personale che occorre è inutile parlare di piani paesaggistici regionali o del restauro e pertanto del recupero del centro storico dell'Aquila. In definitiva, allo stesso modo di Lucio Dalla, posso anche canticchiare tra me e me, penso a grandi imprese, ma se si vuole essere normali, è saggio tenere presente che si parte da migliaia e migliaia di possibili crolli e da uno sconfinato numero di negatività d'ogni genere, diffuse ovunque nell'Italia dei Vandali. Una tribù verso la quale, per il solo fatto di essere un politico, ho più di un ragionevole dubbio di avere versato un qualche tributo, mentre se dei meriti ho avuto, oppure avrò, questi rientrerebbero nella più appagante normalità. Avete ascoltato la risposta di Giancarlo Galan alla lettera aperta di Salvatore Carrubba del Sole 24 Ore di domenica 27 marzo. La risposta del ministro dei beni culturali è titolata «La mia missione? Uscire dalla sfiducia nella cultura», pubblicata dal Sole 24 Ore di mercoledì 30 marzo.